si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Prima di tutto, rinnoviamo i nostri contatti. Andate sulla pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24. Siamo in tanti, possiamo diventare ancora di più e soprattutto tramite la pagina Facebook. Poi vi comunicheremo le cose relative al concorsone. Siamo anche su Twitter, si può fare 24. C'è anche la mail, si può fare radio24.it. Oggi, il sabato, come sempre, anche in diretta con i vostri interventi, le vostre buone notizie della settimana, 800 24 00 24. Dicevamo del concorsone, ultima settimana, perché da sabato prossimo 9 marzo scatterà la tagliola, cioè in diretta vi chiederemo di mandare l'SMS con la mail con la quale vi siete registrati sul sito di Radio 24 per partecipare al concorso. C'è ancora tempo tutta questa settimana, e con questo invio di questa mail partecipate all'estrazione del premio che abbiamo tanto pubblicizzato in queste settimane, un soggiorno sostenibile offerto dagli amici di EcoTube, un'iniziativa anche questa interessante. Vi chiediamo di votare le storie migliori di questo primo anno di Si può fare. Chi vince, le storie che vincono hanno la possibilità di tornare in trasmissione da sabato prossimo e raccontare le evoluzioni della propria iniziativa. Gli ascoltatori invece, voi avete la possibilità di portarvi a casa il soggiorno sostenibile, come dicevamo. Ma andiamo ad iniziare con qualche notizia della settimana. Allora, Facebook, i social network aiutano i nonni, aiutano gli anziani a vivere meglio. Ogni tanto ritornano queste notizie. Questa volta è uno studio dell'Università dell'Arizona. O l'ha pagata Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook in persona, oppure è vero, sarà vero. Hanno fatto uno studio, insomma, le persone over 65, scusateci se vi chiamiamo anziani già a quest'età, ma è così, almeno per le classifiche anagrafiche. Ci sono effetti positivi sulla percezione della presenza di una rete sociale di sostegno. Insomma, la rete è stata fondamentale per Grillo e il Movimento 5 Stelle, che hanno vinto le elezioni prendendo un sacco di voti tra i giovani. Giovani e social network, un binomio indissolubile. Noi vi chiediamo oggi all'800 24 00 24, a voi over 65, voi che siete definiti già degli anziani, come vi trovate sulla rete, con i social network? La utilizzate per vedere le foto dei nipoti, per iscrivervi al gruppo di quelli che hanno frequentato il liceo tal dei tali? Insomma, chiamateci 800 24 00 24. Nella settimana in cui il Papa lascia, cambia la Chiesa, cambia forse il mondo con quello che è successo l'altro giorno, una buona notizia arriva dalla curia, dalla Chiesa di Pordenone. Per il secondo anno consecutivo, la Chiesa, che viene spesso criticata per essere predicare bene e razzolare male, essere male, essere lontana dalla vita della gente, ecco qua, per il secondo anno i preti della curia di Pordenone rinunciano a una parte dello stipendio per aiutare chi ha bisogno. L'anno scorso hanno raccolto 396.000 euro e quest'anno il vescovo Pellegrini la rilancia questa iniziativa. Brava la Chiesa di Pordenone. La prossima notizia è una curiosità di marketing alimentare. Arriva la mozzarella di bufala halal, che segue cioè le procedure della religione islamica, cioè anche gli islamici potranno mangiare la mozzarella di bufala. Io non so se questa notizia è essa stessa una bufala oppure se è una cosa vera, ma insomma ci fa bene sapere che anche i nostri amici musulmani possono mangiare uno dei nostri prodotti più tipici. E questo ci porta, tra l'altro, al primo argomento di oggi: i nostri rapporti con gli amici stranieri. In Italia meglio non farsi operare, in Italia e non andare all'ospedale, in Italia la bella vita, in Italia le grandi serate in gala, in Italia fai affari con la mala, in Italia il vicino che ti spara, in Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Oggi l'abbiamo presa così con Fabri Fibra e Gianna Nannini. In Italia ogni anno, ogni volta che si vota alle elezioni, c'è una parte di cittadini che rimane fuori da tutto questo. Sono gli stranieri che risiedono in Italia da molti anni e anche i figli degli stranieri nati in Italia che non hanno la cittadinanza e che quindi sono fuori da questo momento che comunque si crea di partecipazione, di comunità. Io mi chiedo ancora, perché facciamo votare, che ne so, Francisco Roca, che abita a Buenos Aires e c'ha i nonni italiani, e invece cittadini stranieri, l'egiziano che ci viene a imbiancare casa o il marocchino che ci vende la frutta al supermercato che abita qua da anni, non hanno il diritto di voto. Di questo si occupa, e anche d'altro, un'associazione, la rete G2, che tra l'altro ha fatto anche una proposta di legge, chissà se il nuovo Parlamento la prenderà in considerazione. Salutiamo Medin Paolos, che è della rete G2. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, ciao a tutti. Eccoci qua. E allora, prima di tutto, anche perché ti chiamiamo, anche perché a Milano nasce uno sportello proprio per i ragazzi della seconda generazione di stranieri in Italia, l'associazione di cui fai parte anche tu. La legge di cui parlavo io, la proposta di legge che avete fatto, diritto alla cittadinanza per gli stranieri nati in Italia e voto per gli stranieri che stanno in Italia da anni, a che punto è col nuovo Parlamento, Medin? Col nuovo in realtà è a un non punto, la nostra è più una speranza più che altro. Era un auspicio. Abbiamo preso il dibattito sulla riforma. Però avete fatto la legge 91 e 92. Avete fatto anche una campagna che si chiama? Sì, abbiamo fatto una campagna che si chiama L'Italia sono anch'io, che prevedeva due proposte di legge. Una delle due era proprio la richiesta della riforma sulla cittadinanza italiana, che è nel 91 e nel 92 per la precisione, e che quindi chiedeva che questa legge sia più inclusiva rispetto ai figli degli immigrati. Ma è vero che quando appunto ci sono le elezioni che si crea questo, anche se in una forma di contrapposizione tra i partiti, insomma tra le parti, però questo spirito di comunità, di partecipazione, chi invece, come appunto citavamo, gli stranieri che stanno in Italia e non hanno questi diritti, si sente, come si sente? Tagliato fuori? Si sente un pochino tagliato fuori, nel senso che anche come anche tanti altri diritti di cui magari una persona che ha la speranza a cui non fa caso, anche il diritto di voto è un momento in cui insomma viene in qualche modo esaltato il fatto di essere un po' fuori dalla parte di comunità che può permettersi di essere attiva nella maniera più normale e banale possibile, se vogliamo. E a noi questo dispiace, perché invece lo diciamo sempre, se siamo una comunità voglio anche dire dare certo, perché se vogliamo, diciamo sempre, almeno qua si può fare, se vogliamo davvero l'integrazione, davvero vivere in armonia, in pace, in serenità, senza, insomma, tutti fratelli, ma insomma, davvero in armonia, allora dobbiamo dare i diritti alle persone, no? Concedere i diritti che gli spettano, altrimenti poi diventa difficile, se non si tende una mano. A Milano, dicevamo, uno sportello sta nascendo proprio in queste settimane per i ragazzi di seconda generazione in Italia. Il Medin Paolos tra poco ci spiega di che cosa si tratta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In Italia i veri mafiosi sono. In Italia i più pericolosi sono. In Italia le ragazze. Di nuovo in compagnia di Medin Paolos, di origini eritree, ragazza che fa parte della rete G2, i ragazzi della seconda generazione di stranieri in Italia, con la quale stiamo parlando del fatto se questo Parlamento che si sta per insediare farà quello che non ha fatto lo scorso Parlamento, cioè una cosa di buon senso, dare la cittadinanza ai ragazzi stranieri nati in Italia e dare magari anche il diritto di voto, cominciamo con le amministrative, a quegli stranieri che abitano da anni in Italia, pagano le tasse, vivono qua e non si capisce perché non debbano votare. Dicevamo però che a Milano si sta facendo qualcosa, c'è uno sportello, il Comune ha messo a disposizione degli uffici e vi ha coinvolto. Per fare che cosa, Medin? Sì, scusami, mi permetto solo una specializzazione, perché hai già un paio di volte detto che siamo stranieri. In realtà noi non siamo stranieri, siamo giusto italiani con il permesso di soggiorno. Non tutto lì. Di origini straniere, insomma, per capirsi, Medin, sì. Il progetto di cui tu parli, nel frattempo abbiamo coniato un nuovo nome, perché sportello ci sembrava anche un po' troppo ufficio, e l'abbiamo chiamato G-Lab, dove G sta per generazione e Lab sta per laboratorio. E questo progetto è nato appunto dalla collaborazione tra l'Assessorato alle politiche sociali di Milano e il Servizio di Informa Giovani sempre di Milano e la rete G2, che si occuperà proprio nei fatti dello sportello. E si tratta di un laboratorio di cittadinanza urbana che si propone di dare informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza. Faremo anche un po' di orientamento al lavoro e allo studio attraverso un desk composto da cittadini di origine italiana che saranno già Medine, ti sentiamo purtroppo malissimo, sentiamo molto male l'audio. Grazie, comunque abbiamo capito più o meno il senso di quello che state facendo a Milano. L'invito a tutti i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri che si affacciano a questo tema della cittadinanza ad andare a trovare lo sportello o il G-Lab, come adesso è stato ribattezzato a Milano, animato dal comune e dai ragazzi della rete G2. Insomma, un'iniziativa importante per venire incontro anche a questa parte di italiani, chiamiamoli così. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantato? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò. Vabbè, diffondere la cultura della bicicletta anche con canzoni come questa, la bellissima bellezza in bicicletta. Insomma, la bicicletta è il mezzo più sostenibile che c'è per la mobilità in città. Pensate che nel mio palazzo c'è una signora che ha 85 anni e che usa tutti i giorni la bici per andare in giro. È davvero clamorosa. Allora, non ricordo come si chiama, la signora del piano di sopra che c'ha tutti i fiori al balcone, e la vedo sempre partire in bici a 85 anni. È straordinario. Quindi la bici va bene per tutti. A Bologna c'è un'iniziativa, l'Università della Bicicletta Unibike, che parte proprio oggi. Ne parliamo con Simona di Salva i Ciclisti di Bologna. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. Prima di tutto una battuta: c'è qualcuno che paga per farsi insegnare ad andare in bicicletta? Che cosa fate in questi corsi, Simona? Per adesso il corso è gratuito, poi se vediamo se ha successo, magari penseremo di lucrarci sopra, ma non credo. Vabbè, insomma, un sano lucro anche solo per pagarsi le spese di organizzazione o per fare un po' di campagna a favore della bicicletta sicuramente ci stanno, no? Che cosa fate? Sì. Per noi il pagamento migliore sarebbe l'aumento dei ciclisti, che ci risparmierebbe un sacco di spese sanitarie, di incidentalità. Certo. Sarebbe un guadagno indiretto abbastanza notevole per noi e per tutti. Si ride e si scherza, ma la campagna Salva i Ciclisti è una cosa serissima, perché ogni anno pedoni e ciclisti in tutte le città, da tutte le parti, muoiono letteralmente falcidiati dalle automobili, perché le città sono fatte a misura d'auto e questo è sbagliato. E non c'è cosa più importante di salvare delle vite umane, al di là del discorso poi del usare la bicicletta o altri mezzi per andare in città. Questa è la campagna che c'è alle spalle. Ci sono tante iniziative che si stanno muovendo. Voi che cosa insegnate in questi corsi, che insomma hanno l'originalità quantomeno di presentarsi come Università della Bici, Simona? Noi cerchiamo di condividere quella che è la nostra esperienza di ciclisti urbani, alcuni da 10, alcuni da 20, altri da 30 anni a seconda dell'età, per far capire alle persone che la bicicletta è un mezzo molto conveniente sia a livello di spese che a livello di salute, che a livello di tempi, perché in città la bicicletta è più veloce della macchina, e quindi insegniamo a rapportarsi con quello che è il traffico urbano, che purtroppo adesso è abbastanza difficile, però anche a capire qual è la percezione di sicurezza, perché molte persone non vanno in bici perché hanno paura, e poi insomma si tratta magari alle volte alcuni piccoli accorgimenti per quello che riguarda la percezione, che ti consentono di sentirti più sicuro e di vivere questo fantastico mezzo anche con più piacere. Certo, perché poi l'insicurezza nel traffico riguarda tutti, riguarda i pedoni, riguarda anche le auto, perché si muore anche in automobile. Assolutamente, purtroppo non è questo il punto. Si muore di più certo, in automobile. Certo che in bicicletta, sì, esatto, sì, la paura è maggiore perché si è allo scoperto, ma questo è un altro discorso. Quanti, insomma, si sta creando un movimento intorno a queste iniziative? Quanti iscritti, per esempio, avete oggi? Iniziate oggi, se non ho capito male. Noi iniziamo oggi c'è la prima lezione in quello che è l'Urban Center, nella Biblioteca Centrale di Bologna, la Sala Borsa. La prima lezione abbiamo già 45 pre-iscritti. Beh, e siamo contenti perché facendo attivismo da anni conosciamo quasi tutti gli attivisti e sono tutte persone che non conosciamo, quindi siamo sicuri che sono persone nuove da coinvolgere e che veramente possono costituire la base per un movimento di ciclismo urbano non sicuro. È poco, non è poco. Siamo in una città media, Bologna, però insomma 45 persone non sono poche. 45 più, tutta una serie di persone che non si sono ancora iscritte, ma che verranno, che hanno preso informazioni, quindi insomma contiamo su una partecipazione di un centinaio di persone. Diciamo, stanno cambiando, Simona, le città italiane per quanto riguarda la mobilità, Bologna in particolare, dove vivete voi. Insomma, in questi anni di cose ne abbiamo viste fare, dalla chiusura di alcune zone pedonali a Bologna, il famoso T-Days, cioè la chiusura del centro nel weekend, il bike sharing, queste bici, soprattutto nelle città grandi, che si prendono a noleggio, purtroppo solo nelle città grandi, varie cose. Sta migliorando dal vostro punto di vista o è ancora troppo poco? Perché poi ci sono quelli che dicono ma sono solo iniziative spot e non cambia mai nulla. Allora, diciamo che sicuramente sta crescendo la domanda, sta crescendo il desiderio dei cittadini. Io ripeto, facendo queste iniziative da anni non ho mai riscontrato un entusiasmo tale. Evidentemente se ne comincia a sentire veramente il bisogno di questo genere di cose, mentre qualche anno fa era più difficile anche avere risposto dalla cittadinanza. Adesso io ho colleghi di lavoro che vengono al lavoro in macchina, che mi dicono che invidia, che tu vieni in bici, vorrei anch'io. E io gli dico, guarda che se lo puoi fare, è possibile. Com'è insomma il claim della vostra trasmissione. Sì. E lo useremo per il promo del programma. L'amministrazione ha ancora paura, non dico tanto l'amministrazione bolognese, dico in generale. C'è ancora un po' di timidezza della politica. Nel fare delle scelte in questo delle scelte senso radicali, perché chiaramente la tendenza italiana a voler rimanere come si è, anche se si sta male, perché nessuno è felice di rimanere bloccato nel Simona traffico, in 30 in secondi poi ci salutiamo e veniamo via da Bologna, anche se ci piacerebbe stare lì tutto il giorno. Certo. Un telegramma al prossimo Parlamento, avete fiducia? C'è stato un grande cambiamento, si è detto molti giovani, forse i temi della sostenibilità, che sono cari anche al Movimento 5 Stelle, avranno un rilievo, sempre che il Parlamento duri. Un telegramma in 30 secondi. Noi chiediamo che il Paese possa beneficiare di tante scoperte che ci sono state di recente sull'efficienza della bicicletta e sull'incremento del trasporto pubblico, perché è un risparmio di denaro enorme a livello di costi sanitari, costi di incidentalità, benessere, senso della sicurezza, socialità. Tutto a vantaggio di tutti, a costi minimi, e quindi io dico di informarsi e di buttarsi in quello che è un nuovo modello di trasporti per l'Italia e per le città. Grazie Simone, amici ciclisti, fatevi avanti, 800 24 00 24. Per non ripetere gli sbagli del passato, le buone pratiche della pubblica amministrazione, a confronto nella scuola di altra amministrazione, dove la R altra è volutamente tra parentesi, che si terrà tra qualche settimana. Chiediamo lumi al presidente dell'associazione scuola di altra amministrazione, Luca Fioretti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di tutto, di che si tratta? Poi c'è tempo ancora per iscriversi, cittadini, sindaci, assessori, tutti quelli che sono interessati a che cosa? Ma guardi, allora c'è tempo, ma sbrigatevi perché siamo in chiusura, giunti a 100 iscrizioni, quindi era il limite, quasi 100 iscrizioni, era il limite che comunque anche per motivi logistici ci eravamo dati, quindi la scuola ha avuto veramente un grande successo, la prima edizione di questa scuola. Voi siete, lo dico io, l'Associazione dei Comuni Virtuosi, sì, che insomma fa molto, però non è che può fare l'impossibile, quindi più di tanti iscritti non potete gestirli. Facciamo dove sarete molto quest'anno? Ma questa è la prima edizione della scuola, poi saremo in altre località, saremo il 22 e il 23 marzo 2013 nella splendida cornice del castello di Padernello in provincia di Brescia. Benissimo. È una iniziativa che facciamo insieme alla fondazione Cogeme del posto, tratteremo di temi naturalmente che ci riguardano personalmente, riguardano la piena sostenibilità, quindi parliamo di gestione del territorio, piani regolatori a crescita zero, impronta ecologica, nuovi stili di vita e naturalmente anche nuovi strumenti e di partecipazione. Sono tutti progetti concreti già attuati e quindi il meccanismo della scuola è questo, assessori, sindaci dei nostri comuni soci che hanno attuato questi progetti insegnano, tra virgolette, agli amministratori e funzionari pubblici questi progetti. Cioè si spiegano proprio anche concretamente le cose, per esempio non so, c'è un bando europeo, potete partecipare per avere questi finanziamenti oppure per risolvere questo problema, noi abbiamo fatto così cos'ha. Una cosa mi incuriosisce particolarmente ed è tutte cose che servono per scalare poi le classifiche della qualità della vita, no? Quelle cose che vengono fuori una volta ogni anno, per cui chi è interessato, il sindaco di un comune, a crescere in questo senso, sì, può venire a trovarvi, ci sono anche i siti, no? Vogliamo ricordarlo il sito? Sì, il sito è comunivirtuosi.org dell'associazione oppure anche amministrazione.it relativo alla scuola. Una cosa mi ha colpito in particolare di quelle di cui parlerete ed è il piano regolatore a crescita zero, il caso di Paterno Franciacorta, siccome parliamo sempre del rischio cementificazione, il fatto che a ogni goccia d'acqua ci sono alluvioni e quindi sappiamo che la strada da percorrere è questa, però non si riesce mai a fare. Qual è la buona pratica in questo caso, sindaco? La buona pratica è quella di un comune, che è quello di Paterno Franciacorta, appunto in provincia di Brescia, che ha riqualificato, ha rimesso a nuova vita aree dismesse, aree che erano anche pericolose dal punto di vista ambientale, quindi sono state fatte delle bonifiche, sono state fatte delle riqualificazioni sull'esistente e sul dismesso. E questo assolutamente è la strada da seguire, perché ci sono, io direi, decine di migliaia di ettari di superfici di questo tipo in da riutilizzare. Italia. Senta, poi ci risentiremo più avanti sotto scuola, così ci farete anche qualcosa live. Qualcosa veloce che dobbiamo chiudere sulla mobilità sostenibile, abbiamo parlato delle biciclette, qualche chicca in qualche comune, qualcosa da raccontare? Ma guardi, noi prima ero in contatto con Salva Ciclisti, con loro faremo un accordo sicuramente quadro a livello nazionale per promuovere le bellissime iniziative che fanno loro, ma ce ne sono tantissimi di comuni in tutta Italia che attuano progetti veramente incredibili dal punto di vista della sostenibilità e naturalmente della mobilità sostenibile. Io invito tutti a vedere sul nostro sito comunivirtuosi.org chi è in linea ora, anche un amministratore, un sindaco, non deve far altro che prendere e attingere dal sito e copiare le buone pratiche e i progetti, perché ci sono addirittura anche le delibere di giunta, quindi tutto c'è scritto, c'è scritto tutto. Viva la rete, massima trasparenza, massima funzionalità. Assolutamente, grazie assolutamente. A Luca Fioretti, presidente dell'associazione Scuola di Altra Amministrazione. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Oh, arrivano subito i messaggi, adesso sentiremo anche qualche telefonata all'800 24 00 24 sulla questione dei ciclisti. Ogni volta che si parla della bicicletta ci sono quelli che chiamano e scrivono per dire che i ciclisti si comportano male. Sentiamo Fornella che dice: a Schio hanno rovinato tutte le strade per fare le ciclabili, non vengono usate, non osservano i semafori e vanno contromano. Perché, scusate, ma le macchine, vogliamo parlare di come vanno le macchine in mezzo al traffico? Un casino che, insomma, voglio dire, almeno il ciclista che non rispetta le regole rischia lui in prima persona, no? Di finire sotto la macchina. Invece quello che con la macchina ti taglia la strada e ti mette sotto, quello non rischia nulla, e a morire è il pedone o il ciclista. Abbiamo qualche chiamata al numero verde? Ancora no. 800 24 00 24. Vediamo se c'è qualche messaggio. Sempre al 349 238 6666. No, non abbiamo niente. Abbiamo però in compenso una chiamata. Vediamo se ce la facciamo, perché insomma volevamo sentire qualcuno. Poi c'è anche il discorso sulla cittadinanza, cioè dare la cittadinanza ai ragazzi stranieri nati, figli di genitori stranieri nati in Italia. L'abbiamo parlato in apertura con i ragazzi della rete G2. Abbiamo Massimo che ci chiama da Modena. Intanto, buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno. Niente, io volevo riportare un'esperienza, cioè praticamente questi ciclisti, anzi soprattutto volevo parlare con la ragazza lì che insegna ai ciclisti, di insegnarti pure un po' di educazione stradale. Ma è per questo che lo fanno, è per questo anche che lo fanno. Ho rischiato di ammazzarne tre. Sì. Uno mi è venuto addosso che era ubriaco, mi ha aumentato il premio. Vabbè, adesso però mi scusi, le ha aumentato il premio, le è venuto addosso uno che era ubriaco, però questo non c'entra nulla con i ciclisti. Quanta gente in macchina crea degli incidenti essendo ubriaca? Non è un problema della bicicletta, se no veramente non abbiamo capito nulla, proprio stiamo parlando dei ciclisti, però no, visto che c'è un'iniziativa che venga fatta in un modo decente, cioè che costruttiva, utile, no, in tutti i sensi, senza recare danno agli automobilisti. Ma loro lo fanno proprio per questo, per insegnare come si va in mezzo alla strada e anche per aiutarli, diciamo, a non essere vittime degli incidenti, perché ripeto, nell'incidente tra una macchina, nello scontro tra una macchina e una bicicletta, a lei hanno tolto i punti della patente, forse, sì. Quello rischia di morire, cioè questa è la differenza. Rischia di morire perché è un incompetente, cioè sì. Quello va in giro con le luci spente di notte, magari attraversa senza guardare, è pericoloso, quello è pericoloso. È per questo che bisogna migliorare la mobilità nelle strade italiane, altrimenti resterà troppo rischioso andare in bicicletta, un mezzo che invece è utile e conviene. Va bene, Massimo. Per gli autisti dell'automobile restano pericolosi. A lei non le è andata giù questa cosa che ha perso i punti della patente per questo ubriaco? Certo che no, certo, mi viene addosso uno ubriaco in bicicletta. Vado all'ospedale a vedere come sta, mi trattano male perché questo è ubriaco. Non però questo non c'entra nulla con la bicicletta, secondo me, c'entra con gli ubriachi che vanno in giro. Grazie Massimo. Giovanni dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno. Era solo, chiamavo per il diritto di voto, sì, agli immigrati. Secondo me gli stessi diritti come noi italiani, 18 anni, sì, e scuola dell'obbligo. Sì, come scuola dell'obbligo. Lei è obbligato a fare avere la scuola dell'obbligo? Ah, certo, la scuola dell'obbligo è obbligatoria, però non è che se uno non ha fatto la scuola poi non può votare. Questo purtroppo è vero. Vale anche per gli italiani. Poi si dice, devono sapere l'italiano, e ci sono dei nostri concittadini nati in Italia che non sanno l'italiano. Si dice, devono pagare le tasse, e c'è gente che evade. Andrebbe tolta la cittadinanza agli evasori, allora, forse. No, non togliere la cittadinanza, il diritto di voto. Sì, e quindi anche il diritto di voto. Io dico, limitiamoci a 18 anni. Cioè sì, uno, ma certo, questo è giusto. Questo è giusto, non è che si deve votare prima dei 18 anni, ma nessuno dice questo. Io ho votato 21 anni, perché allora si usava 21. Altro. Adesso si fa 18, ok, 18. 18 per tutti, grazie Giovanni. Sentiamo anche Vittorio, già che ci siamo, dalla provincia di Ancona. Buongiorno. Ciao, buongiorno, pronto? Eccoci qua, sì, la sentiamo benissimo, Vittorio, prego. Ciao, carissimo, ti volevo denunciare questa cosa. Ti rendi conto? Sono sposato da 23 anni, il 22 febbraio auguri. Di quest'anno, ho finito 23 anni. C'ho i figli che è nati in Italia, Osimo, fanno il quinto anno delle superiori, ancora mia moglie non c'è la cittadinanza. Ah, è questo il punto. Ci abbiamo casa, la casa di proprietà, lavoriamo a tempo indeterminato, sì. Ti rendi conto? Ogni volta tirano fuori una storia, un documento è scaduto, questo non serve. Abbiamo speso migliaia di euro per i documenti, perché sta dell'Oriente. Guarda, è una cosa assurda. Una cosa assurda, allucinante. Vittorio, è per questo che abbiamo parlato di questo argomento, per evitare... Io però non ho capito. Lei, Vittorio, lei è sposato con una donna da 23 anni, dello Sri Lanka. Esatto. Sì, preciso. Ti rendi conto? E lei non ha ancora la cittadinanza? All'inizio non gliene fregava. Abbiamo cominciato la pratica nel 2005. Sì. Cioè, ti rendi conto? Lavora a tempo indeterminato, paga le tasse, non ha diritto a voto. Ancora non gli danno sta benedetta cittadinanza. È una cosa che non si può... È una vergogna. È una cosa che grida vendetta, Vittorio. Ma guarda, è una cosa allucinante. Vai alla prefettura, ma poi c'è il computer. Ma perché questa gente non li usa i computer? Devono giustificare una mole di lavoro che non c'entrano esiste, i computer. Vabbè. Poi, in provincia mia, comunque abbiamo toccato un nervo scoperto, evidentemente. Grazie anche a Vittorio della provincia di Ancona per questa testimonianza. Adesso invece cambiamo completamente pagina. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. Bum, bum, bum, bum, ba, bum. Sail the ship. Bum, ba, bum. Chop the tree. Bum, ba, bum. Skip the rope. Bum, ba, bum. Look at me. All together now. All together. E adesso facciamo una specie di appello tutti insieme, come in questa rivisitazione della celebre canzone dei Beatles, tutti insieme per fare che cosa? Acquistare terreni da coltivare. Un acquisto collettivo avviene in provincia di Treviso, siamo a Montebelluna, un appello perché mancano ancora alcune famiglie e finché non si raggiunge una certa soglia non si riesce a fare questo acquisto. Di cosa stiamo parlando? È un po' misteriosa questa cosa. Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Daniele Feltrini, buongiorno. Sì, buongiorno. Daniele Feltrini, agricoltore. Del gruppo di acquisto solidale Terreno, GAST. Noi conosciamo i GAS, quelli a gruppi di acquisto di prodotti alimentari. Invece voi siete un gruppo di acquisto, volete comprare un terreno insieme in provincia di Treviso. Sì, è così? Siamo in provincia di Treviso. Come... L'idea è partita da un gruppo di amici che volendo diciamo investire i loro soldi e non avendone chissà poi quanti, hanno pensato alla terra, perché tra l'altro i miei clienti da sempre acquistano prodotti biologici che io produco, ortaggi soprattutto, e hanno fatto uno più uno dicendo mi pare un buon investimento, mi pare il terreno. E quindi partito da loro, poi mi hanno coinvolto, sono stato ben lieto di intraprendere questa avventura. Stiamo cercando una cinquantina di famiglie, cinquantina di persone, di investitori che vogliano mettere 7-8 Io ho letto che avete raggiunto già una certa soglia. Insomma, praticamente mentre gli italiani parlano di Grillo, Bersani, Berlusconi, Balotelli, voi vi trovate lì a discutere di come a fare un acquisto collettivo di un terreno, una cosa piuttosto insomma originale, nuova. Non so quanti esempi ci sono in Italia di questo. Quali sono i vantaggi che ci sono a fare questa cosa qua, Daniele? Beh, dal nostro punto di vista il terreno agricolo, essendo che non è un bene riproducibile, tenderà ad aumentare di valore. Questa è un po' anche l'idea per il quale comunque vada l'azienda agricola, è un buon investimento. E gli altri vantaggi sono che chi aderisce, quindi i soci, diventeranno veramente protagonisti della produzione del loro cibo, in un certo senso, o applicando della manodopera o semplicemente comunque stando all'interno della filiera e valutando che i processi produttivi siano di buona qualità e che quindi il cibo nelle loro tavole sia fresco. Cioè, quindi praticamente io posso investire 5, 6, 7 mila euro in questo terreno, un investimento che sicuramente non si disperde perché il terreno ha un valore, poi avrò prodotti controllati alimentari sulla mia tavola a prezzi calmierati, naturalmente, perché essendo il proprietario è chiaro che sarà così, e quindi ci sono una serie di vantaggi. In quanto tempo voi pensate che si possa ammortizzare, per esempio, questo investimento, Daniele? Questo effettivamente non è stato precisamente valutato. Non avete un business plan, ma non importa, insomma, era una domanda così. E invece quante famiglie ci sono già interessate? Quante ne mancano? Guardi, in realtà l'interessamento è già arrivato praticamente alle 40-50 persone che volevamo. Adesso bisogna andare sul pratico. Chiaramente bisogna arrivare al sodo e in un certo senso effettivamente riscuotere, diciamo, i soldi per fare l'investimento. E il terreno l'avete già trovato? Il terreno, sì, diciamo che siamo partiti anche già sapendo qual era il terreno che volevamo acquistare. Sono sui 3 ettari e sono nel comune di Montezemolo. Alla fine uno diventa proprietario di quanto? Ogni singola famiglia? Esatto, diventa proprietario di 3 ettari. Ma ogni famiglia diventa proprietario di 3 ettari o meno? Ogni famiglia diventa proprietario di 3 ettari, perché in realtà poi il terreno non viene frazionato, il terreno è tutto di tutti, cioè viene creata una forma di società o di cooperativa. Non ci sono dei frazionamenti, però diciamo, volendo fare una divisione matematica ha ragione. Così era una curiosità, diventano sui Vabbè, la divisione la facciamo la prossima volta che ci sentiamo, non è un problema. Un'altra volta, io non ci ho neanche pensato, perché in realtà l'acquisto. Perché voi ragionate in un'ottica comunitaria, quindi diversa rispetto. Non c'è frazionamento. Noi abbiamo visto la notizia, ci ha incuriosito, è una cosa abbastanza nuova, anche se se ne parla da tempo, e però insomma ci interessava capire chi si sta muovendo davvero su questo terreno, cosa fa, come funziona. Grazie per averci tolto le curiosità, e intanto anche un appello a chi è nella zona, si è interessato, forse c'è ancora tempo per entrare in questo gruppo d'acquisto terreni nella provincia di Treviso. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Forse tra un attimo sentiamo ancora qualche vostro intervento. Vi ricordo i nostri contatti, andate sulla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, veniteci a trovare anche su Twitter Si può fare 24, poi c'è anche la mail Si può fare radio24.it. teniamoci in contatto, specialmente in questi giorni in cui sono gli ultimi giorni in cui si vota per il concorso che vi abbiamo proposto in queste settimane per celebrare il primo anno di trasmissione di Si può fare. Andate sul sito www.radio24.it e trovate tutto. Abbiamo un ascoltatore, Ilian, dalla No, Ilarian, dalla provincia di Foggia, benvenuto o benvenuta? Benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Mi sente? Sì, la sento bene, Ilarian, prego. Allora, una precisazione, mi chiamo Ilarian. Ah, mi scusi, mi hanno scritto Ilarian, allora, va bene. No, niente. Allora, io sono italo-albanese, no? Cioè, praticamente, io sto quasi da 2 anni che sono cittadino italiano e mia moglie, che sta dal 1997, ancora non lo prende. Cioè, l'unico posto dove questa legge esiste, questa legge, è l'Italia, perché se lo prende in qualsiasi stato del mondo uno della famiglia, la cittadinanza italiana, gli altri la prendono di conseguenza. Queste. Cioè, lei dice in 15 anni sua moglie non è riuscita, e lei dice una cosa incredibile, lo penso anch'io. Tra l'altro, insisto, noi diamo la cittadinanza a gente che vive, che ne so, a San Paolo del Brasile, a Buenos Aires, che non è mai stata in Italia, forse sa malapena l'italiano perché ha un nonno italiano e quindi ha il passaporto, ha la cittadinanza, e noi la diamo a gente che vive da 15 anni, ma vi rendete conto? È una follia. Grazie Ilarian per averci chiamato, anche per la sua testimonianza. Altre telefonate non ne abbiamo per il momento, e allora andiamo tra poco con la prossima notizia, che è una notizia che sfata diversi miti negativi della pubblica amministrazione. Si può fare, per esempio, un concorso per assumere delle persone nella pubblica amministrazione in poco tempo, assumendo gente sulla base del merito, e questo è comprovato, spendendo poco, facendo rientrare anche degli italiani all'estero, i famosi cervelli in fuga. E questo si è potuto fare e si è fatto. Ne parliamo con Carlo Flammont, che è il presidente del Formez. Buongiorno, adesso spieghiamo. Buongiorno. Anche buongiorno. Cos'è il Formez? È l'agenzia che diciamo si occupa per alcuni ministeri di gestire questi concorsi. In questo caso un concorso indetto dal ministro Barca per l'integrazione territoriale per assumere per la coesione, scusate, territoriale dell'ex governo, ancora in carica peraltro, per assumere 300 persone per la ricostruzione all'Aquila. Ci racconti tutto, Flammont? Sì, questo concorso è un concorso un po' atipico perché ha messo insieme le assunzioni per moltissime amministrazioni, praticamente tutti i comuni del cratere del terremoto, quindi con l'Aquila al centro, tutti i comuni limitrofi, poi ministeri come il Ministero delle Infrastrutture che si doveva occupare della ricostruzione hanno deciso di fare un concorso tutti insieme. Erano in realtà 14 concorsi per varie figure diverse, ingegneri, architetti, geometri, istruttori tecnici e così via. La necessità era fare tutto presto, in fretta, perché la ricostruzione doveva passare dalla gestione straordinaria alla gestione ordinaria. Mi tolga una curiosità, Flammont, poi faccio continuare. Sì. Ma poi chi li paga questi assunti? Perché uno potrebbe dire, sa com'è l'ascoltatore e il cittadino medio, a pensare male si fa peccato ma non si sbaglia. Cioè, saranno i comuni, ci sono delle linee di finanziamento? Le singole amministrazioni pagheranno i loro dipendenti. Sarà tutto sostenibile economicamente? Speriamo di sì. Tutto sostenibile perché chiaramente, uscendo dalla gestione dell'emergenza, alcuni fondi sono passati direttamente alle amministrazioni. Cioè, quindi useranno questi fondi per investirli, certo, in procedure non d'emergenza ma di ordinaria gestione a questo punto del territorio. Della ricostruzione, ordinaria gestione del ritorno alla normalità di questi comuni. E quindi in 5 mesi e 9 sì, giorni per l'esattezza, siamo riusciti a completare la fase di preselezione di 37.000 candidature che sono arrivate per questi 300 posti, 4 prove scritte e la prova orale. Ora, a parte diciamo la rapidità che in questo caso è stata proprio accelerata dalla necessità, sì, ma questo sistema, utilizzando le moderne tecnologie per il recepimento delle domande informatizzate, per la preselezione, consente comunque nell'arco di 8-10 mesi, anche in condizioni normali, di poter assumere a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione i migliori, rispettando il criterio della trasparenza e tra l'altro, della preparazione. Esatto, la preparazione, questo è importante, avete premiato il merito, voi ne siete sicuri perché avete dei criteri, no? Avete usato dei selezionatori interni cercando anche di spendere poco, però avete fatto una serie di prove tali Per cui, insomma, non è un concorso taroccato, è un concorso vero, hanno vinto molti ragazzi, molti giovani, diceva anche lei, lo ricordava, e mi interessa anche questo aspetto qua, 5 italiani che vengono dall'estero, cioè siete riusciti anche a attirare di nuovo in Italia 5, vogliamo chiamarli cervelli in fuga. 5 ragazzi, tra i 300 vincitori ci sono 5 ragazzi che sono nati all'estero, alcuni erano rientrati probabilmente per... delle esigenze del terremoto, delle famiglie che magari rientravano, quindi operavano già nell'ultimo anno nella ricostruzione, ma abbiamo fra i 300 vincitori 5 nati all'estero di famiglie italiane. Cioè avete contribuito con questo concorso, visto anche il livello, diciamo, qualitativo, ci sbilanciamo in questi giudizi, anche se non... Io personalmente non posso entrare nel merito dei criteri, però da quello che abbiamo letto anche sugli articoli di stampa in questi giorni, perché la notizia è di questi giorni, insomma, tutto questo è verità. Può essere questo, Flamand, un modello che si ripete a livello in altre regioni, ma anche a livello nazionale, un piano per questo, per la ricostruzione, per la messa in sicurezza del territorio, assumere ingegneri, geologi, architetti, come avete fatto voi, cioè gente fresca, laureata in cose che servono per il territorio? Assolutamente sì, qui si dimostra quindi che è quello che solitamente blocca questi processi, sono che quando ogni volta che parte un concorso si scatena uno... anche i mass media, ma insomma la politica in genere, contro il modello di selezione. Qualunque tipo di selezione che deve selezionare decine di migliaia di persone, chiaramente può incorrere nei 5.000 quiz, in un quiz errato, in una domanda che non è precisa. Questo alza un fuoco di sbarramento e di ricorsi che di solito porta, allunga il processo di mesi e soprattutto demotiva i ragazzi. Invece noi abbiamo utilizzato stavolta la diretta streaming, per cui chiunque poteva assistere a tutte le prove, fin dalla preselezione, dove sui 5.000 quiz sorteggiati, che vengono sorteggiati, chiaramente ci può essere un quiz errato, diventato obsoleto perché magari quella materia è cambiata. Insomma, un modello di estrema trasparenza, di efficienza in questo concorso da esportare, da ripetere. Speriamo che non cada nel vuoto questa bella esperienza, questa bella pratica. Ne abbiamo parlato prima con la scuola di altra amministrazione, qua direttamente dal Ministero. Insomma, arriva una buona notizia, il concorso per gli neoassunti per la ricostruzione dell'Aquila. Grazie Carlo Flamand, presidente di Formez, per queste notizie. Grazie a tutti, ci fermiamo qua. Grazie a Guido Scotti, Valentina in redazione oggi in assistenza, Franco Piantanida, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Paolo Corleone in regia. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Buona giornata.